Non mi lasciar mio ben. Taci e t'assidi sul trono mio. Ma non si giunge a questo senza pria superare questa mia spada. Non usurpo la natruni. Rame felici. Sono l'empio attentato e dei nemici. E tanto sosa ancor, ma non ti all'ira mi provocate. E onde erin avrete amor maestà, delusi alla vendetta mi chiamano, e sarò vindice loro. Troppo attenzia mio pro. Fate incomincio, ma è lo scempio. Renalire un padre, che a me pur sei crudele, ben cavoroso. E per darmi un diadema altrui dovuto, mi inganni, mi tradisci, ed mi assordi, intanto vendo il cerito, e perdo fra due madri, e madre e servo. Quella la madre tua, tu il figlio mio. Mi confondi, avvenisce il destin rio.